Grazie Antonio K. Fate sciuro gli occhi. Avanti. Buongiorno, buongiorno. Da me. Sì, a passeggio sì. Siamo con la BM, via Lomberto. E quindi stai diventato a casa? Ah, no, no, sto salendo a tappa per farmi. Ho preso delle cose. Sei stato a Sassari? Perché non sei a Sassari, scusa? Abita la Torcia, dove a Corso, a Ripunti. Sì, vabbè. Stai salendo a Sassari, infatti. Quindi, cioè, salendo a Sassari. Sei a Sassari. Stai salendo solamente nelle zone alte e basta, non stai facendo altro. Appa. Già va bene. In mezzo agli alberi. Questa funge la quella funziona sì. Ma pensando in questa antenna, è di mio padre era, non ho capito. Ah beh, c'è una più un'antenna vecchia, è quello. La materia, però funziona come il primo giorno che l'abbiamo comprata, Ma vi siete accorti ieri notte che avevo lasciato la porta aperta? Mi sono riuscitato stamane, mi si è bruciato la persona. Porca miseria, hai spettoni, Antonio. No, non ne ho neanche uno. Che cazzo hai fatto per sentire lo spezzo? Pagato la porta a piedi, tanta la notte. E io sei gusto lì. La toccata a mister, la toccata. Quindi se sono trovato tutta accesa, ma tutta la notte. Coccolo. Poi mi sono accorto facendo le prove che il capo di quello principale mi se adesso si è bruciato il filo come era sempre importante perché non andava più. Ho capito. No, io grazie a Dio non me lo lascio l'apparecchio importante, invece va bene così. Anche tutta canta la notte la portante a pezza a casa di Ciccioche. Appunto per quello. Era anche con la fioliera, era incendiato, bruttente era. Miracolo che non si è bruciato, lo sai perché non si è bruciato? Perché non ho stazionato, sennò ci sarebbe fuso. Ho capito. Sicuro si sarebbe bruciato il lineare. La fortuna mia è che non mi sono stazionaria. La fortuna mia. E non si sarebbe sciolto. Me lo immagino, già lo credo. Quando lasci le cose accese, cioè lineare. Anche io una volta mi avevo lasciato il lineare acceso, ma per la mano già non si è bruciato. Per fortuna. Ma il problema è che, come ti dice, il problema è che non è nessuna carta, cioè con il microfono da tavolo, sicuramente ha toccato questo, me. È rimasta la porta già aperta tutta la notte, è rimasta, si era sentito russare pure. Poi sicuramente ha sciolto il capo. Quello principale, quello che andava al coso, l'ha sciolto. Speriamo di no. Sì, non va più. L'ho dovuto cambiare lo stesso. Sì, adesso c'è qualche un altro. Non ne ho neanche uno, sono te l'avrei regalato di spezzone, la verità. Non è rimasto manco uno. Infatti ho dato a Giovanna per agganciare l'apparecchio suo a casa, capito? Chiappa. Ma c'è la GBC, sta contando sta roba. Chi è l'errede? La GBC diffusato è aperta. Sarà la GBC è morto Tonino, quindi è chiusa. Ma la roba di Tonino chi la prende? Non lo so, la verità, non lo so. Magari la comprerà quel napoletano, cosa cazzo ne so io, quello che c'ha per la niente, niente di strano. E faranno la valutazione, poi gli diranno, c'è questo coso, se c'hai i soldi te la giudi. C'è tutta questa roba qui, se te la vuoi comprare, paghi in contanti e tutto a posto. Vedrai che ce la compra lui, mi vedrai la scena. Se io c'ho pullato a 48 a 2 cd mi rubiglio io. Alla 48 io? Già ce ne sono in giro alla 48. Mi piace molto la 48 a me. No, ho capito. Ce l'ho anch'io sempre questo, alla 48. Ho fatto la modifica, noi siamo il microfono amplificato e ce l'ho qua a casa. Un pugno, trema lo zitter. Credo, per cavolo sei. Che cavolo zitter sono? Stai andando. Adesso mi metto una strappa d'usilo a modulare. Solo una usilo vuoi salire. Boom. Ferma dalla cuvetta che ti metto una cosa, fermati. Con il bambino è addormentato. Dopo ti ha preso, cosa c'è? C'è anche tu dico il bambino, non è che. Anzi, lui c'è una puppetta. Tonino. Quello della cuvetta. Ci vediamo lì, ci vediamo. Se tu stai salendo lì, ci vediamo direttamente lì là. Cuvetta. Eia. Dimmi quando sei arrivato, io scendo. Ok, esatto. E che cavolo, sei dormito Gabriele? Dai, sto passando sto. Va bene, ok. Sei sotto, sì. Via sotto sono. E sta arrivando. Yeah. Attenzione, binario 10, binario 10, copiate la stazione Antonio K. Hola. Attenzione, binario 10, Marco C'è di Noghe. Allo. Allo. Ciucu. Chi è che ti è giunto? Sono qua. Chi è che vuole entrare avanti? Avanti, chi è? No, mi ti dorro a casa, fra poco. Già, va bene così, non c'è problema. Piano, ritorni a casa. Adesso ti prepari la cena e poi sei a posto. No, oggi già c'è mia cognata, mi sono contento dopo. Almeno c'è qualcuno a casa mia. Sono ben contento qua. Vabbè, almeno quello. Appagappa. Sono qua in zona via Verona, via Venezia. Là. Com'è il segnale? Buono? Dove 25 sei? Sei vicino a casa di Luca. Da che? Luca è quello che è entrato da poco in via Rockefeller. No, già va la grande qua. Poi vabbè, non è che sei molto lontano da me, no? E appunto per quello. Soddisfattissimo di questa antenna. Se te lo vedo, quella va benissimo come antenna. Chi ci rimane, anche non ne compare giù altre. Voglia, aspetta un attimo, guarda lo c'è, ci sentiamo tra un po'. D'accordo, ok. Grazie, ciao. A dopo, ciao, non c'è problema. Attenzione 10, copiata Antonio K. Hola, c'è qualcuno? 131. Attenzione, binario 10, K. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno? Hola. Allora, c'è nessuno? Ciucu. Ora. Oh. Bobby. Coca-Cola. La bagassa tua. Qua stampi modulazione su 10 AM. La sosso. Abbiamo di giocare. Bobo. Già c'è, ma c'è questo disturbatore. Thank you. posto di sicurezza. Più matto fra te. Sono tutti gli arrivi anche da confronto, mi arrivi. adesso sto usando un po' di vitamine, eh. Vedi un po', adesso com'è, adesso è lì, adesso è liscio, eh. Adesso si è arrivato la giustizia. Avanti parecchio, sì, adesso sono liscio, avanti parecchio. Dai, buonasera a tutti, ciao Franco, ciao Tore, non so se ci sia qualche di un altro, doppio rumo, avanti. Perché stai facendo tutto così male? Mi sono voluto spostare per sentire a Tore, boh, adesso mi rimetto sul sito a vedere, io sono su 7-3. Perché non lo senti a Tore? Ciao, fatto Gianni, 80 euro di visita e 150 euro per portarlo via. E via, non lascia più niente a campare. Ah, ah, ho fatto una degna sepoltura, c'ho tutta la documentazione, il ricordino, tutto, un funerale vero e proprio. Guarda, ieri sono entrato alle 9 di sera distrutto, distrutto. Eh beh, ci credo, è una vita che ce l'hai, è normale che ti dispiace, via. Vedi, a San Perro ti avessi preso quello là di cane. No, no, già, basta con i cani. Basta, basta, basta, mi devo riprendere da questo shock, ma shock veramente, vedo il cane così nel lettino che se ne va, è come vedere un cristiano, già, credimi, tu ce l'hai, lo sai, cosa vuol dire? È stato uno strazio vero e proprio, oggi c'era anche l'aria, tutto il giorno con noi, è andata via poco fa, ma no, lascia perdere, no, no, per il momento sto bene così, no, l'ho fatto portare al cimitero dei cani, io non lo sapevo neanche, c'è Andrea Lorga, è venuto dal visitor, l'ha portato lui, lo involge in un telo particolare, capito, gli ha fatto i ricordini, li ha voluti prima, insomma ha agito un funerale vero e proprio, io non sapevo se il cimitero dei cani ha... Dove è Sant'Anna? Non lo so neanche dove è. No, lo so dov'è. Praticamente a San Francesco. A San Francesco, prima della chiesa, svolti a sinistra è lì. Ah, sì, sì, San Francesco, non Sant'Anna. Sì, e posso anche andare a vederlo, non è che ci sono problemi, capito? No, non so parlare, io lo so dire, no. Tipo, era degno di avere veramente una cosa del genere, perché un cane mi ha dato soddisfazioni a morire. Gli ho messo anche le due medaglie, gli ho messo al collo, che aveva vinto in due gare che aveva fatto di tiro. E vabbè. Pazienza, vabbè, vado a accendere la stufa ragazzi, ci sentiamo dopo. Grazie Ettore, grazie Franco, grazie a tutti, riprendi Franco. Capo. E poi quando i cani sono così registrati non è che lo puoi seppellire dove vuoi, microchippato, devi annullare il microchip, insomma c'è un sacco di cose da fare e devi rispettare certe regole, dai. Ok, dai, avanti Tore. Soprattutto quello è pericoloso, ho capito, perché è registrato, infatti c'ho il certificato di morte adesso, oggi non ce l'ho fatta perché non la dura, domani mattina vado all'ufficio anagrafe canina e faccio la cancellazione, avanti to. Scusa un attimo, rientro subito. È capato, oh Gianni. Oh. Quindi sto uscendo di tipo direttiva, mi orizzontale, quindi sicuro l'ho abbassata, quindi diciamo la canna è appoggiata dall'avanzale verso un albero che ho davanti, dai, più o meno è in orizzontale. Io ti ascolto sempre bene, fra, non ho problemi, ti ascolto sempre degnamente. No, per quello anche io ti sento benissimo, ma siamo vicini. Un po' ho perso magari con Claudio, ho perso un po' perché l'antenna è invece di essere 8 metri in alto, è 8 metri più in basso. Perché non ti fidi, paura che si spiega? No, l'altra volta mi ha piegato la staffa in ferro, capito? Porre un estrappi la staffa dal muro, perché è attaccata la staffa per stendermi. Ah, ho capito. Vabbè. Un lavoro fatto così in velocità. Buonasera. Ecco, buonasera. Sì, praticamente è un tipo un portacanna, quindi la sollevo, la sfilo e poi quando cambia il vento la rimetterò in verticale. Se no sbatte dappertutto, sbatte sopra la grondaia, è un casino, ci sono pompe di calore a fianco, a volte ci incastra sotto la grondaia. Non va bene, ci rovina pure, dai. Avanti la bussata. Ciao Franco, ciao Gianni, non so chi c'è, saluto di circolare. Ecco perché non ho visto più la tua antenna, c'è stato un capo, ma l'antenna ne ha bucato. Non ho notato che era in orizzontale però. Forse non si vede perché già è grigia, quindi di conseguenza non si vede. Ma un paio di giorni mi l'ho passata, credo che questo sia il secondo o il terzo giorno, boh. Alle prime avvisaglie del vento. Comunque mi ascolti sempre bene a me, sì. Beh, non è il tuo segnale, quindi in genere mi ricordo che mi avrebbe oltre il 9, 9, 10, adesso non mi ricordo, adesso è molto più basso, ma ripeto, perché sicuramente perde parecchio. Era aperta e non gli ha fatto mal vento, la sono sofisticata. Ciao Torino, buonasera. Vabbè, già, cioè, noi siamo stati dei più fortunati, dai, fino adesso. Cazzo, tutte le zone del Cagliaritano hanno fatto un casino, a Pirri, tutto allagato. Altre zone non lo so, ne ho sentito io comunque. Io sono entrato poco fa, adesso sono un po' stancuzzo, ma adesso vedo che c'è due chiacchiere, ma proprio due chiacchiere, poi 10 minuti me ne vado a riposarmi e fare la schiena, tutto qua. Chi c'è oltre Franco Gianni, poi? C'è Tore, vediamo un po' se Tore Squalo se può rientrare, se no riprendi tu Gianni. Claudio, quello è Corisci che è andato a attaccare la caldaia. Quindi siamo al di schiena e deve essere lavorato troppo. Stato sulla scala, ho usato anche molto piccolo per forza perché cioè, le persone non lo sanno usare, quindi hanno fatto casino. Comunque l'ho dato tutta la luce ed è contento. Domani devo infilare altri tubi, bloccarli, cazzo di contiudi e non capiscono. Piede della luce, vabbè, sono dei magra adesso e non capiscono. Andrà bene, comunque se tutto sommato oggi è martedì, per giovedì prossimo venerdì ho finito. Vabbè, avanti fra. Dunque ciao a Tore e Claudio che è il QRX a strada alla caldaia, avanti fra. Di radio non mi piace questa volta, che microfono stai usando? Sempre il solito, to così, non so se esca. Così un po' meglio, che okay? È un effetto, non so, tipo un po' vuoto, mi è una modulazione un po' tipo dentro una scatola. Sono vuoto io, sono sacco, sarebbe quello. Sempre lo sciure sto usando fra. Faccio la cosa come si dice, puntella, perché poco fa avevo difficoltà, un po' perché mi manca un po' di udito. Salutoni comunque a tutti e tre, da parte mia. Anche a Claudio, ciao a Torino, da parte mia. Sono un attimino all'ascolto perché sto preparando da mangiare la Simona, ok? Ma fa poco. Adesso è innescato un po', anche qua. Prima uscivi bene. E adesso ho abbassato. Adesso bene. Attesa? Sì, va bene adesso, Torino. Adesso... Ma come mai innesca? Mi stavo parlando io. Lo so perché posso innesca. Perché io, diciamo, lo spilotto che ha attaccato il microfono al baracchino non è completo, saldato come si deve, è tutto aperto. Non ho avuto la voglia, la gara di serrarlo e mettere quella specie di plastichina che può toccarsi contatto, eccetera. Sarà per quello, ma non me la fottete, non la voglio già, non la giocare. Dovrei mettere il microfono normale, quello di gioco a me. Aspetta, te lo regolo io. Abbassa il macchinino, mettilo al centro il macchinino, non lo mettere al massimo. Mi avrebbe dato il marchino, vediamo. E dov'è il macchinino qua? Non è un macchinino. Questo è il macchinino. Questo non è. No, questo non è. Questo neanche. La poco il tasto, scompensiamo già. Allora, quello che è toccato è la potenza, le O eccetera eccetera, quella è la potenza, invece c'ha due o tre potenze. Ci dovrebbe essere il mic gain, perché se tu regoli il mic gain, puoi mettere al massimo il microfono e non ti innesca, capito? Forse c'hai troppo alto il mic gain, ma se non lo trovi... Le potenze ce l'ho qua, e le ho, 1000 HI, quello qua, vedi? Adesso ho abbassato del tutto, adesso ho sollevato, quello non è. Allora aspetta che io abbasso questo qua, e giù questo, ma cosa so, e becca. Ecco, adesso l'ho messo a 6 volte. Dovrà essere migliore così, confermi? Ma ce la faccio entrare? Sì, anche per me è meglio, avanti. Sono mezz'ora che sto cercando di entrare. Dunque saluto a tutti. Bene, ben ascoltati. Volevo proprio che lui doveva fare cazzo, c'era, dopodiché avete ripreso, uno è attaccato al lato, non si può più entrare, a un certo punto, vabbè, ok, non c'è problema, saluto a tutti quelli che siete nel canale, eccetera, eccetera, ciao Tonino e tutti gli altri. Antonio, a me pare che tu hai vinto, se sei entrato poco fa hai detto le stesse cose di adesso, a me fate entrare, due mucci, a scuola, mira, bevi con la forchetta, fai da bravo. Ha detto che stavo andando a preparare di mangiare a Simona, boh, io ho capito così. La birra di Valdemari. Sì, Rulo. Aspetta che sono incasinato con un telefono, hai capito? In due minuti. Sono poco fa che sto rispondendo al telefono, non aggiungo. Due minuti. È tutto incasinato, tra una cosa e l'altra, telefonate, boh. Quindi la vera birra, ma se ne dimenticate da un secondo all'altro, non dico io posso capire un giorno, cosa, ma cazzo da un secondo all'altro. No, perché invece la birra è saputo il tappo. Ciao, sei incudito, non tappo, sei incudito, paghisso. Ecco, devo dire una cosa. Ciao. Ciao, Tony, cosa mi devi dire, c'è brutto o no? Una cosa urgente, allora... Quel mangime che stai dando al tuo cane lo stanno ritirando perché c'è praticamente un veleno all'interno che può rovinare il fegato e farlo morire. Io domani lo devo portare, ne avevo comprato un sacco intero, non l'ho ancora aperto perché ne avevo altro da prima, ho visto su internet che di subito io ho proprio un recipiente per metterlo dentro, lo travaso sempre, questa volta non l'ho travasato perché c'avevo ancora un po' di mangime della scorsa volta, portanelo e te lo cambiano perché lo stanno ritirando tutto, tu gli dai a radio, ma aspetta un attimo che devo andare a soccorrere mio nipote, è rimasto chiuso dentro un ascensore bloccato, quindi sto scendendo giù e lo sblocco, ok, a dopo. Basta, non ti incasi dopo. Ascolta, dove lo prendo il mangime? All'Eurospin. Dai, mi sa che è quello che prende anche il mio suocero, quello in pacchi grandi, dai. Sì, proprio quello da 10 kg, quello Radamer, una cosa del genere si chiama, Radamer. È buono, perché da quando io gli davo quello, io prima gli davo un trainer, costava 50 euro il sacco. Questo qui costa 12 euro, però non lo faceva più a diarrea a Taiso. Invece questo è quello che c'è, che andavo prima, che dicono tutti che è un bel buono, non lo faceva a diarrea. E allora ho cambiato, ho provato questo perché un'amica mia mi ha detto che loro sono volontari e tengono quei cani che abbandonano, eccetera. Gli davano quello, ha detto guarda, vanno, va benissimo, perché questo è di marca e lo produce una ditta di Mantova. E adesso praticamente dice che è dovuto alla malconservazione, si è formata una uffa che è velenosa e praticamente ti prende al fegato e poi ti fa venire anche i tumori. Quindi è una cosa momentanea, quindi lo stanno ritirando in attesa di risolvere il problema, così? Sì, allora c'è un lotto che stanno ritirando, c'è un lotto, c'è il numero del lotto, la data di scadenza, eccetera. Però oltre a quello lì lo ritirano tutto, quello in particolare, perché hanno fatto le analisi su quello lì, però lo ritirano tutto per analizzarlo, capito? Lo ritirano tutto qua, adesso domani mattina glielo porto, non è per i 10 euro, però non mi devo ammazzare un cane. Beh, anche questo non è un cane poveraccio di razza, però sempre fa parte della famiglia. L'altro giorno è scappato perché ha saltato la ringhiera, figurati, il giorno dei fuochi artificiali, cosa fanno? Degli spari che fanno, no? Per capodanno. È sparito un paio di giorni e poi meno male è rientrato. Ma in campagna c'è? No, ed è ali punti dentro, tutto recintato, cancello, e non ho capito da dove è saltato questo cane. È già il secondo anno. Vai, deve fare un virus. Come? Il cane ti chiede, le ferrovie o il tuo? No, no, agli punti, dai miei suoceri. Ah, da tuoi suoceri, ho capito. No, perché sapevo che trovavi il gatto, per quello te l'ho chiesto. Ma la casa che avevano i tuoi genitori è venduta, vabbè. Sì, sì, è venduta, tutto fatto. Peccato. Era un bel posto, dai. Eh sì. Avanti, Tore. Chi c'è ancora? C'era Tore. Tore, avanti. Già, io ne ho un mezzo sacco, ne ho dato. Già. Me lo già mangiano una testa. Ma penso di sì, penso che te lo debbano ritirare lo stesso. Guarda, su internet c'è, non cerchi con Google, quale mangime di Eurospin stanno ritirando, ti dice tutto. Beh, va bene, allora domani mattina, come finisco con mia figlia, glielo riporto. Stanno ritirando, io non l'ho aperta ancora, perché ti ripeto, io ho il contenitore della trainer, non che mi avevano dato in omaggio, perché io ne compravo un bel e gli ho chiesto se era di quel contenitore, allora gli regalo e mette, ma me lo deve pagare 15 euro. E vabbè, glielo pago. Poi mi ha detto, no, c'è stare là, tu ne compri un bel di mangi e te lo regalo io. E me l'ha regalato. E io come arrivo? Lo travaso nel contenitore, perché è tutto ermetico, capito? Si chiude ermeticamente, non passa aria né niente. E tipo, cosa ti posso dire? Dove si mette la biancheria sporca? Tipo così. Sì, sì, ce l'abbiamo, cioè ce l'hanno anche loro. Un contenitore è colorato, adesso non mi ricordo se è color fucsia, boh. Il tappo da chiudere dopo. Sì, sì, sì. E io usavo quello, come arrivavo a casa lo travasavo, ma questa volta non l'ho travasato, fra, perché non aspetto mai che finisca del tutto, no? Ne compro un sacco di riserva, di modo che quando finisce lo travaso e basta. E adesso lo devo lavare bene anche quello, perché se ci sono dei rimasugli, delle cose, bisogna togliermi. Non lo so così. Mi sa che come invece finirlo sempre, così quello che metti almeno sei sicuro che non ti scade, perché magari sotto ci rimane sempre quello vecchio, invece conviene intanto finirlo e mettere tutto nuovo, magari una lavatina. Io guarda, se li cambio il tipo di crocchette, perché ogni tanto le cambio, all'inizio le rimischio, ne metto un pugno di uno e un pugno dell'altro, di modo che poi si abitua, allora dopo piano piano scalo e poi alla fine le do tutto di quello. Ma io li lavo le trae, mi costano un bene di là, 50 euro il sacco costa, da 10 kg, e lo spin, questo qui costa 13 euro, 12 euro, 13 euro. E questa amica mia mi ha detto, qua Gianni, dagli quello perché è buonissimo, io glielo do ai miei cani e non hanno mai avuto problemi. Sì, infatti anche loro davano quello consigliato forse da mio cognato, che anche lui è, diciamo, è un po' esperto per quanto riguarda i cani, dai. E anche lui lo prende un sacco di anni, lo sta mangiando già da parecchi anni, ma sembra che stia bene, non ha scariche, non l'ho mai visto, anzi, a parte cacco con un elefante, che anche, non dico di grossa taglia, però è abbastanza grosso, dai. No, ma lo si presenta con malice di cose del genere, ti si formano i tumori. Tumori e al fegato ti prendi. Non lo so, io adesso riferisco, vediamo un po' quanto ne hanno, se l'hanno preso da poco, se ne hanno ancora già sigillato, bisogna vedere il lotto, dai. Riferirò. Grazie per l'avviso comunque. Avanti Tore. Io l'ho preso da poco, l'ho preso. Cosa ce l'ho? Neanche una settimana. Ma questo è andato male, Tore, per la mal conservazione. Dice che si forma una muffa che forma questo veleno che ti incastri, prende lo, c'è scritto il nome, adesso non mi ricordo che tipo di coso è, non l'avevo mai sentito. E questa cosa che fa male, capito? Mi fa male al fegato e in più li crea tumori. Mi continua a dare le altre crocchette che c'ho, quelle al pollo e coniglio. Lo prendi anche pomponio, non hai mai nulla, tu? Cosa tu? Lo prendi anche pomponio, lessi. ma hai visto cosa abbiamo fatto? L'ha fatto diventare sventiato. È rimasto bloccato anche lui, ascensore. No, non ci ha messo a dire cose da un minuto all'altro. Purtroppo quando la roba non è buona capita, lui ha fatto quell'effetto. Si dice che la mal conservazione del mangime che ha formato questa muffa che è tremenda, che fa male allo stomaco e fa venire cancerogena. Ma da parte loro la mal conservazione o si crea quando tu lo conservi male? Quando lo conservi male, non è da parte loro, è da parte della fabbrica di Mantova. Comunque cerca lo fra su Google e ti dice tutto. Rademens si chiama. Sì, è quello. Io ti sto dicendo, vedevo prima con un laccio con te nel sacco, poi questa amica mi ha detto non devo dare più quello, questo qui lo sai com'è lo spine, ci serve, sono tutti di marca le cose, poi vedi anche l'acqua Sant'Anna che l'è messa sotto un altro nome, però è sempre Sant'Anna, e ci sono cose di marca, non è che sia perché ne ho dai cani miei, lì c'è praticamente non so di che associazione è, però ritirare i cani, capito, fanno questi lavori qua. E mi ha detto, guarda, i miei prima avevano di aria, gli ho dato questo mangime qua, non hanno più problemi. Sì, a volte il produttore è lo stesso, poi a volte serve un respinzer, Conad cambia la marca, ma alla fine la sostanza è quella. E prenderò le monge adesso, le monge oppure di nuovo le trainer, ma le trainer non facevano la diarrea. Ti davo quello al pesce io, perché io la carne le la do di per sé, io le la do tutti i giorni, mattina e sera la carne, quindi se li metti le crocchette al pesce almeno mangiano anche un po' di pesce, sempre che ce ne sia. Un po' liofilizzato sarà. Avanti, Tony. Ahimè, guarda, lo piglio al pollo e tacchino. La traina e basta, mi piace quello, però ne prendo 3-4 volte alla settimana il tonno arrosto, ne tolgo tutta la pelle perché è posata, tutta l'ossicina e divido un pollo per due e dirò che loro non ti toccano neanche le crocchette, stanno così bene e sono belli fini. Tu non ne dai crocchette tu? Io gliele metto ma non le mangiano, ormai sono abituato al pollo. E invece gli altri sono in Italia, non credo che piace più il pollo. A volte anche i pezzi di pollo fatto a fette, faccio la piastra e già li piace. Cari, di tutto li do il cuore, li do il fegato, li do il fettine di cavallo, però non è che li puoi dare sempre cavallo, non cazzo costa un mezzo, ogni tanto li do il cavallo, ma di solito li do carne macinata, oppure sempre che non ci sia maiale in mezzo, perché lo fa subito a diarrea il maiale. E la carne macinata di vitelli, di manzo, dai. E poi praticamente li do fegato, cuore. No, il mio ha sempre mangiato bene, li do anche la pasta in mezzo, li metto anche qualche volta qualche zucchina e carota. Sì, ma io anche la pasta le faccio, non è che... E siccome io compro sempre quel pollo arrosto allo stream, e quando mi vedo, mi conosco già, il pollo per i caruse io sì, e però non preme la fiacca a me. E lungo i cani, le calze di frecchia, signora, ma non sta pagando lì il pollo? Dice no, è là perché sta parlando. Io il cane mio le do quello che pare piace, ma non posso permettere, glielo do, me ne va, e le mangio secca. E questo è che era dietro il banco, così pare. E dopo già t'ha avuto a te. Cosa già? Sì, tu già t'ha avuto a te. Almeno me, ha avuto qua, cazzo, non faccio bene la tecnica, io voglia. Un'altra volta ero lì, arrivato alla cassa, toccava a me, ero un po' di roba, e c'era questo tipo, feo le drone, magro, capelli lunghi, tutto molto male, riattuato, con una femmina, e tra quelle recine, tutti i lupi, e mi fa, fammi passare che io sono in valido, ascolta, senti, me l'ho ben agito, in valido lo so anch'io, quindi fa una cosa, fai da bravo. Dice io sono in valido, ma me la mia fottuta e tu sei in valido, lo vedo. Se tu sei invalido ti rimanevi in macchina a casa tua, vera femmina tua e farsi la via, mettata, uno è cagliato, oh, chi è una ragazza che mi conosce, hai fatto bene. Sono il capo, e ma sono sceso nel bloccato. Mi, ma non è che era invalido e zaibeto, chi sono? Ah, non lo io, ma era molto male, poi pantalone corse, va via Pinocchietto, tutto molto male, faccia, tanto alto, saluto mami, tocca a mamma, ha giocato la guida e non voleva passare, vai, ha fatto pronto, vai. Io sono più gentile, se vedo qualcuno che magari c'ha un pacco solo, dico passi avanti signora, ah grazie, finalmente è un gentiluomo. No, già, anch'io faccio passare molte persone. Ma questo con la strafottenza, no, sono invalido, a me non me la fotti nulla, anch'io sono invalido, forse credete, qui 10.000 mezzo, capisci? Nel modo come l'ha detto, poi se sei invalido, di me casa tua è macchina, ma è una femmina che non grazie a Dio non fa nulla, quindi, e farà via come te l'ho già fatta io, punto e cagliato. E io poi mi guardo la sorte, ma è un po' che mi è da amare, anch'io sono fatto un sito, mi conosci già. Donino ha sempre cercato di risse. E tu prende colpi? E chi io? Allora chi io? E infatti, se vedo, sono così brocinito. No, niente, no, bianco. Buonasera a tutti. Ciao. No, grazie a Dio, già. Io la mocanaccio, me la cavo. È che non sto più bisticciando perché non ne voglio, capito? Adesso penso a lavorare, basta. Fare lavori extra che mi piace di più. Quindi... apria, invece per tempo, io quando devo fare grosso, sì, ma quando tocca a me a fare la fila, e uno va a banco, sono in vado, vai a matta, vai, cosa gli fai, tutta la casa tua, la casa serena. Meda, me ne tratto comunque Claudio, a te di nuovo fai girare. Una vecchiaia carogna. La vecchiaia è carogna, oramai, dobbiamo fare da bravi, mai che riesce a vendere, ciu ciu, cercate la bocaccina della bicchiera con il tontino, un pugnale, cioè la gente che gira con i pugnali, con i coltelli, cioè rimane, non si tratta ne più, a posto siamo, non so chi ci sia rimasto qua, io stavo accendendo la caldaia. Ehi, io invece sono andato a salvare... a mio nipote è rimasto incazzato nell'ascensore. Nell'ascensore. A tu sei. La Iana dice Sarrada. È finito il gettone. Ma lì, con l'ascensore mi pare che è un poco difettoso. Non è che anche Gianni di Buio si è salvato di me. E più o meno una cosa del genere. E quindi sono andato immediatamente ad aprire tutto. E se lo sarei entrato subito, non ti preoccupare. Mi ha chiamato Giovanna, mi ha detto che l'ascensore è rimasto chiuso, è un casino, è cazzo l'ascensore, sono venuti, la chiamo l'ascensorista e vediamo un pochettino, deve essere il problema di come si chiama, di olio, hai capito? Allora, ma tu non sei elettrotecnico, guardalo tu. Io? Ma tanto me la frega, l'ascensore del condominio mio, non mi interessa nulla, no? Ah, ce la faccio. E poi la arrestano. Allora, ragazzi, l'ascensore non è una cosa seria, non bisogna metterci le mani, perché ho fatto il caposcala nel mio condomino e quando c'erano problemi di ascensore dicevano, se ho calato, salga su, lo disinserisca e lo tiro a mano, no, anche di la nuca è a mano. Io chiamo la Cone, vengono loro e si arrangiano loro, perché se sbagli è un casino, è un casino. Ci sono delle manovre molto molto precise, delicate, che devono essere fatte da persone competenti. A chi si sbagli a tirare su il cavo d'acciaio a mano e non va il cavo dove deve andare, secondo come scende l'ascensore, fa lo scatto, cazzo di fare l'ascensore, mamma così. C'è la frizione, basta tirare una leva e lo fai andare a mano. Io l'ho fatto, però non qua. L'ho fatto dove lavoravo, che c'era monta a carichi e c'era detto che si bloccava. E ti ricordi quello dei carbonati a 11 persone, figurati, si poteva usare da monta a carichi e l'ascensore. Quindi, però noi quando abbiamo avuto problemi a me me lo diceva, guardi che l'ascensore non si per cui domani mattina lo mettiamo a posto. Capito? Chiamavo la Cone, alle 8 erano lì, io non la più mai educato perché è una manovra che è molto molto molto delicata, molto molto delicata, io l'ho visto tirando la sua mano ai vigili del fuoco, con il calco c'hanno dei guanti particolari, uno mantiene il cavo che vada nella guida, capito? L'altro piano piano a mano lo tirava su, capito? Perché che sei il cavo esce fuori dalla guida, poi quando tu lo rimetti in moto il cavo non è nella guida, fa pum dal colpo, cazzo, puoi fare danno forte, bisogna fare così, fate bene, fatto bene Antonello, chiama l'ascensorista, domani mattina lo fai controllare. No, tutto a posto. Grazie a Dio, ho fatto scendere, certo, ormai conosco l'ascensore, e quindi a un certo punto non ho fatto altro che farlo salire e scendere. Ma sono rimasto chiuso io due o tre volte con Giampiero, figurati tu. Quindi a un certo punto so come funziona. Già va bene, adesso è tutto a posto. Grazie a Dio. Cavo non è come quello di Via Vizzetto. Quello di Via Vizzetto era bello, c'era il cavo, c'era quella specie di ruota grande, eccetera, eccetera. Dovevi metterlo in linea con la... nel cemento c'era la linea bianca e in pratica c'era la linea bianca anche nel cavo in acciaio, dove metterla lì, in pratica uguale, quello me lo ricordo ancora, ma questo è totalmente diverso, questo è parte laggiù e sale da su, quindi in pratica è a olio, capito? Il discorso è totalmente diverso. Sono ascensori diversi, sì, però ripeto, bisogna fare le cose fatte bene, se no è un casino. Va bene, il cambio per Franco, vai Franco. Capo, no, oggi bisogna stare attenti quando ti metti a toccare qualcosa, perché se malauguratamente succede qualcosa, ti fa male qualcuno, la gente pure si fa mai fatti sui, fare il nome tuo, non ti basta una vita per pagare i danni. Dai, vediamo un po', rilancio a Tore che è un po' in bianco, Tore. Anche io ho l'ascensore, la vedo via, che devi fare tutto a piedi. Vero già? E allora? No, io una volta c'era chiuso questo qua, che adesso non abita più, e ciuccia bombe, e c'era chiuso, cazzo, ho detto, Pinù, se vuoi ti metto la pompa così ti bevi un po' di vino, ti tranquillizzi, e fa così, a Roma con cazzo sono un mezz'ora trento, ci ha messo i buon piedi. Comunque più o meno ascensori sono quelli ai pistoni idraulici, sono i migliori, altro che capo d'attaccio, se faccio un cavo se fa gli osso. E quello è il problema, capito? E quindi deve essere quello di Alessio, a Olio ha detto che va. No, con l'Olio va a birra. Cazzo birra. La birra me la bevo io, mica bevo l'Olio. Oggi come ti sei andato? A Tambullana o col cucchiaio, a nulla sono andato, la verità, perché